Potremmo dirti che è imprevedibile. Potremmo raccontarti dei disturbi che arreca la vista, ai movimenti, alla parola. Potremmo dimostrarti che colpisce principalmente i giovani e le donne. Potremmo spiegarti che non esiste ancora una terapia risolutiva. Potremmo farlo, ma sarebbe solo una perdita di tempo. Ogni 4 ore un nuovo caso di sclerosi multipla. Acquista minuti su minutoallaricerca.it. Dona 2 euro via SMS al 48548 da tutti gli operatori di telefonia mobile. Sosterrai l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L'unica prevenzione è la ricerca.